أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Buonasera, siete in diretta con una nuova trasmissione di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Siete in compagnia di me, Michele, e Davide, buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Sono da poco passate le 19, oggi è martedì 22 giugno. In questa puntata di Andala, come di consueto, faremo una rassegna di notizie che ci giungono principalmente dal Medio Oriente e dalla Palestina. In particolar modo oggi vi parleremo della notizia secondo la quale per Hamas Marwan Barghouti è in cima alla lista degli scambi di prigionieri. Sempre rimanendo in tema di Palestina, vi daremo degli aggiornamenti dal quartiere di Gerusalemme di Sheikh Jarrah e vi daremo anche la notizia del capitano delle forze dell'ANP che è stato assassinato dai coloni israeliani. Sempre per rimanere appunto in Palestina, attraverso diciamo l'ottima corrispondenza di Michele Giorgio, vi parleremo pure delle dosi scadute che Bennett voleva rifilare ai palestinesi e che quindi si sono visti costretti per motivi sanitari a rifiutarle. E poi insomma daremo anche la bella notizia del veliero zapatista che proprio oggi è sbarcato a Vigo nel nord della Spagna. Quindi Davide, una puntata densa di notizie, quella di oggi. Facciamo la prima pausa musicale e con Peter Tosh iniziamo con Apartheid. Oggi la scaletta di oggi sarà un po' più reggae che medio orientale e poi ritorniamo in studio e vi parleremo appunto di questi accordi che Hamas sta portando avanti per lo scambio di prigionieri. Remember, in certain places in Africa, submission. So we have to fight, fight, fight, fight against apartheid. That man got to fight, fight, fight, fight against apartheid. You cross the border, you shoot after children. You cross the border, you shoot down women. You cross the border, the beats were right. We gonna fight, fight, fight, fight against apartheid. We got to fight, fight, fight, fight against apartheid. Ask for majority, majority rule. Who need minority? dalla notizia di apertura, dal fatto che Hamas ha affermato che Marwan Barghouti è in cima alla lista di qualsiasi ipotesi di scambio di prigionieri, mentre la ANP resta a guardare. Il partito Fatah non fa nulla per la liberazione del suo leader, uno dei suoi leader più rappresentativi, che lo ricordiamo sempre, se era candidato alle elezioni legislative palestinesi e di sicuro era il favorito per la vittoria per la presidenza. E in tal senso, mentre invece il movimento islamico Hamas ha reso noto questo incontro che è avvenuto con la moglie di Marwan Barghouti, Fadwa Barghouti, e all'esito di questo incontro Hamas ha affermato che Barghouti sarà sempre in cima a qualsiasi lista di scambio di prigionieri. Infatti la notizia è apparsa su Infopal, è stata ripresa dal Monitor, e il leader di Hamas, Hania, ha parlato con la moglie di Barghouti alla presenza di diversi leader di spicco del movimento all'inizio di questo mese al Cairo. È una fonte di alto livello di Hamas che era presente all'incontro ha detto ad Al Monitor che Hania ha dato la priorità al rilascio di Barghouti. Fadwa Barghouti ha ricevuto assicurazioni che suo marito sarà in cima alla lista in qualsiasi futuro accordo di scambio di prigionieri con Israele. Secondo la fonte, che ha parlato in condizioni di anonimato, Hania e funzionari egiziani hanno discusso della possibilità di un nuovo accordo con Israele, e i mediatori egiziani però ritengono che i tempi non siano ancora maturi per fare progressi nei colloqui con gli israeliani e hanno suggerito di rinviare la questione fino a quando il nuovo governo si metterà al lavoro. Non è affatto chiaro, tuttavia, se il governo guidato dal nazionalista di estrema destra Naftali Bennett sarà aperto ad un possibile scambio di prigionieri, dato che lo stesso è ancora più estremo del suo predecessore Benjamin Netanyahu. Hamas afferma di detenere 4 soldati israeliani catturati durante l'offensiva israeliana del 2014 contro la striscia di Gaza, durante la quale furono uccisi oltre 2.200 palestinesi e altri 17.000 feriti. Israele tuttavia mette in dubbio questa cifra. Continua inoltre a detenere 4.500 palestinesi nelle sue carceri. Barghouti, lo ricordavamo, è visto come il successore naturale ormai dell'ormai 85enne Abu Mazen e la persona ideale per unire le fazioni politiche palestinesi. È la persona che darebbe un nuovo impulso alla causa e al movimento per la liberazione della Palestina. Quindi ci auguriamo che gli eventuali colloqui per il rilascio di questi quattro prigionieri detenuti da Hamas, come vi ricordavamo nella scorsa puntata, anche notizia data Al Jazeera, era stato dato questo audio di questo soldato prigioniero di Hamas, e speriamo che in tal senso un possibile scambio porti ad la liberazione di Barghouti, perché rappresenterebbe comunque una svolta simbolica e anche uno smacco a tutti quelli che all'estero si coprono dietro altre sigle, non facendo gli interessi dei palestinesi. Penso che sarebbe un impulso per molti, non solo per la Palestina, ma ripeto, per l'internazionalismo stesso, uscendo piuttosto da quella logica di passività e dando in una prospettiva di resistenza soprattutto, e di unità nella resistenza e di rispetto alle varie fazioni. Dicevamo poi, Michele, che c'era stato anche un morto nelle scorse settimane, o meglio, c'è stato il capitano delle forze dell'autorità nazionale palestinese assassinato dai coloni israeliani. E infatti fonti palestinesi hanno riferito della morte di un ufficiale della sicurezza all'alba di martedì a seguito di un attacco dei coloni nei pressi del villaggio di Deir Sharaf a ovest di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale occupata. Il movimento Fatah Nablus ha dichiarato in una nota che il giovane capitano Ala Khaled Zahran delle forze di sicurezza nazionale è morto dissanguato. Ha sottolineato che il capitano è stato ucciso dai proiettili dei coloni all'alba di martedì. Proprio a Nablus ci tenevamo a sottolineare questo nuovo hashtag lanciato anche dai giovani palestinesi in Italia, Save Beita, in quanto da diverse settimane, proprio a sottolineare il fatto come la colonizzazione israeliana dei territori occupati prosegua giorno dopo giorno, sotto, in maniera diciamo sotterranea, o manco sotterranea rispetto all'opinione pubblica internazionale, in quanto da diverse settimane gli abitanti di Beita, una città al sud di Nablus, stanno lottando contro l'ennesimo progetto coloniale. Circa due settimane fa, infatti, è iniziata la costruzione di Givat Eviatar, un nuovo insediamento coloniale sionista posto in cima al monte Sabi, Jabba Sabi. Essendo questa una zona utilizzata dagli abitanti di Beita principalmente per la coltivazione di ulivi e frutteti, i coloni hanno dato questi ultimi alle fiamme dopo aver occupato le terre. Le conseguenti proteste palestinesi si sono trovate di fronte a una feroce repressione da parte dell'esercito d'occupazione sionista, che come al solito è ricorso ad un uso spropositato di proiettili metallici, proiettili di gomma ed un'enorme quantità di gas lacrimogeni sparati contro civili, giornalisti e perfino ambulanze accorse in aiuto ai feriti, come mostrano anche alcune immagini che potete trovare sulla pagina Instagram dei giovani palestinesi in Italia. Inoltre, per impedire che gli abitanti del villaggio raggiungessero la colonia o che altri palestinesi arrivassero in solidarietà da altre città e villaggi, l'esercito di occupazione ha chiuso con blocchi di cemento tutti gli ingressi a Beita. Nessuno può entrare o uscire, tanto e meno per provare a ostacolare la crescita della nuova colonia, che come mostrano sempre alcune foto della pagina dei giovani palestinesi, in sole due settimane si è ampliata esponenzialmente. In meno di un mese, 5 palestinesi, di cui 2 ragazzi di 15 anni, sono stati uccisi mentre protestavano contro l'insediamento coloniale. Per quanto riguarda i feriti, se ne contano almeno 618. La nuova colonia è strettamente collegata ad un'altra colonia, costruita qualche mese fa, sul monte Al-Arma, al nord della stessa città di Beita. Entrambi i monti si affacciano sulla valle del Giordano, e perciò si tratta di due posizioni estremamente ambite dai sionisti per rafforzare il loro controllo sulla valle. We don't want no nuclear war.

Bene, torniamo in voce dopo aver ascoltato Peter Tosh con No Nuclear War, proprio perché ce n'è bisogno ancora oggi di questo auspicio che nasceva in un periodo buio. In ogni caso, per tornare alle notizie di cui parlavamo, insomma, sì, diciamo all'occupazione di cui purtroppo parliamo spesso. E quindi torniamo in Palestina e purtroppo ci sono stati diversi feriti palestinesi, molti sono rimasti asfissiati dalle forze di occupazione a Nilin. Infatti decine di civili palestinesi, questo è riportato da Ramallah Peak e da Quds Press, hanno avuto problemi respiratori durante le aggressioni di lunedì da parte delle forze di occupazione israeliane nell'area di Al-Wad, tra le città di Nilin e Qibiya, se c'è qualche palestinese mi scusasse per la pronuncia, il tutto questo a ovest di Ramallah. Ovviamente il sindaco di Nilin ha dichiarato in un comunicato stampa che sono scoppiati degli scontri e che i soldati sionisti hanno sparato proiettili di metallo ricoperti di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro le case dei cittadini. Quindi decine di civili hanno avuto difficoltà respiratorie e nel frattempo le forze di occupazione hanno trattenuto per diverse ore un bulldozer appartenente al consiglio del villaggio, che stava lavorando alla bonifica di un terreno nella stessa area, quindi hanno impedito anche il proseguimento di questi lavori. E proprio perché un gruppo di coloni sta cercando di impadronirsi delle terre dei cittadini palestinesi proprio nell'area del monte Al-Alam, a nord di Nilin, e lì vi ha costruito già un primo insediamento fatto di baracche. Gli attivisti quindi hanno chiesto di attivare le proteste notturne sul monte, simili ai loro omologhi sul monte Subi a sud di Nablus, in risposta alle violazioni dei coloni al loro tentativo di controllare la montagna. Sempre per rimanere in tema di occupazione, e qui parliamo come prima del resto anche di pulizia etnica, di apartheid, torniamo a parlare di Sheikh Jarrah nella Gerusalemme occupata, perché proprio nella notte di lunedì 20 palestinesi sono rimasti feriti e 2 sono stati arrestati. Infatti sempre secondo Al-Quds e Quds Press e Wafa, durante la notte di lunedì la polizia di occupazione israeliana insieme ai coloni estremisti hanno attaccato i residenti e le abitazioni del quartiere di Sheikh Jarrah nella Gerusalemme Est. Secondo le fonti locali, 20 persone sono state ferite e 2 giovani locali sono stati arrestati dalla polizia mentre cercavano di respingere gli attacchi di coloni e polizia insieme. Con l'aiuto degli agenti di polizia, i coloni hanno lanciato pietre contro le case dei palestinesi di Sheikh Jarrah, provocando il panico tra le famiglie e i loro figli. Hanno anche dato fuoco alla casa della famiglia Al-Qassem e hanno impedito ai giovani locali di spegnere le fiamme. Durante l'attacco dei coloni, le forze di polizia hanno inondato i residenti locali di gas lacrimogeni, hanno sparato contro di loro, anche in questo caso, proiettili di metallo rivestiti di gomma, e hanno aggredito fisicamente molti di loro usando anche lo spray al peperoncino. La Mezzaluna Rossa ha affermato che le ambulanze hanno fornito assistenza medica a 20 palestinesi residenti di Sheikh Jarrah. Uno dei feriti è un uomo anziano che ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. In tutto questo i coloni hanno lanciato pietre contro un'ambulanza della Mezzaluna Rossa, mentre un'autocisterna della polizia ha inondato un'altra ambulanza di liquido puzzolente. Le forze di polizia hanno anche fatto irruzione nelle case, inclusa quella della famiglia Al-Kurd, e hanno arrestato 2 giovani identificati come Musa Al-Attrash e Ahmed Abu Qudair. Quindi diciamo che questi sono chiaramente dei crimini di guerra, questa è pulizia etnica e ovviamente questi sono atti estremamente deprecabili che solo il sionismo può mettere in essere. Lo stesso sionismo, Davide, che appunto propone ai palestinesi questo scambio, no, con 100.000 dosi di vaccino Pfizer contro il Covid, che però scadono tra 10 giorni. Quest'oggi Michele Giorno sul Manifesto riportava appunto questo fatto delle dosi quasi scadute e del fatto che l'ANP è stata costretta su pressione a rifiutare fortunatamente questo scambio con Israele. Infatti non si trattava di una beneficenza da parte di Israele di dare queste dosi ai palestinesi, che dosi che scadono tra 10 giorni o comunque entro la fine di luglio, e quindi rendendo impossibile nel sistema fragile del fragile sistema sanitario della striscia di Gaza e della Cisgiordania di riuscirli a smaltire in tempo debito. Volevano poi le dosi che poi volevano indietro, poi le dosi che i palestinesi avrebbero ottenuto dai Pfizer rispetto alle date prestabilite. Ecco lo scambio palesemente a sfavore che volevano fare gli israeliani, una bella sola la possiamo chiamare. Stando ai palestinesi possiamo dire che comunque c'è stata una forte pressione affinché venisse rifiutato questo scambio. Finora sono 341.000 i palestinesi contagiati e 3.813 sono i deceduti a causa del virus, un numero relativamente contenuto che si spiega soprattutto con la bassa età media della popolazione. In ogni caso i palestinesi vogliono vaccinarsi per contrastare eventuali nuove ondate nella pandemia dei mesi freddi, e sino ad oggi in Cisgiordania e Gaza, su oltre 5 milioni di abitanti, appena 454.000, meno quindi del 10%, hanno ricevuto la prima dose e 283.597 anche la seconda. L'ANP ora intende rinegoziare l'accordo con Israele, con la garanzia che, spiega la ministra Al-Kaila, nei territori palestinesi arriveranno fiale utilizzabili. I palestinesi hanno firmato un accordo con la Pfizer per l'acquisto di oltre 4 milioni di vaccini a 6,75 dollari a dose, e hanno ottenuto, sono gli unici secondo la ministra aver ottenuto un prezzo così conveniente. Circa metà delle dosi attesa tra luglio ed agosto, e le rimanenti ad autunno dovrebbero arrivare anche 500.000 dosi di Sputnik. In Cisgiordania ovviamente, come ci ricorda Michele Giorgio, la vicenda ha provocato sdegno fra tanti palestinesi, che chiedono l'avvio di un'inchiesta sull'accordo con Israele, che vedono come una forma di normalizzazione con l'occupazione, e accusano l'ANP di aver annullato l'intesa, rimasta segreta per settimane, solo dopo la scoperta della scadenza ravvicinata. I giornali israeliani riferiscono che tre paesi sarebbero pronti ad acquistare le fiale che scadranno in poche settimane. Get together and feel all right. One more thing. is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no, no do. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one? Davide, ritorniamo in voce, sempre qui in diretta su Radio Asilo, sono le 19.34, cambiamo un attimino zona geografica e abbiamo questa ulteriore notizia di qualche giorno fa, in cui praticamente il candidato conservatore alle presidenziali iraniane, Ebrahim Raisi, si è aggiudicato 17,8 milioni di voti, pari al 62% del totale, ed è il nuovo capo di Stato. Altri 3,3 milioni di voti sono andati ad un altro conservatore ed ex alto ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione, Mohsen Rezai, 2,4 milioni al moderato Emari, e meno di un milione al deputato conservatore Esami Ghazizadeh. Basta, come l'affluenza, come era già previsto, è stata abbastanza bassa, non ha superato la soglia del 50%, e il dato ovviamente è frutto del disappunto della popolazione iraniana per i tanti candidati che sono stati squalificati, in gran parte i riformisti, che appunto sono stati presi di mira dagli organi religiosi e quindi sono stati esclusi dalla tornata elettorale. Anche il presidente uscente Hassan Rouhani ha fatto le sue congratulazioni al nuovo presidente, pur essendo noto come un falco. Ebrahim Raisi non ostacolerà il processo di riavvicinamento dell'Iran agli Stati Uniti e il rilancio dell'accordo internazionale sul nucleare iraniano, che ha il sostegno della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Quindi, insomma, dopo questa notizia, possiamo, Davide, tornare in Europa e dare una bella notizia, cioè che il veliero zapatista è sbarcato proprio oggi pomeriggio alle 17 ora locale a Vigo, nel nord della Spagna, e quindi, insomma, stasera ci sarà una grandissima festa per festeggiare proprio lo squadrone di 421 persone dell'esercito zapatista di Liberazione Nazionale, che appunto dopo aver simbolicamente invaso la Spagna dal sud del mondo, dal Sud America, varcherà, diciamo, le soglie dell'Europa e visiteranno un po' tutti i paesi dell'Europa, passeranno anche per l'Italia. Diciamo giusto per diritto di cronaca che comunque il barcone è stato ispezionato dalla Guardia Civile al largo della città, proprio per in qualche modo, non si sa se effettivamente intimidire da parte delle autorità spagnole, però ufficialmente per eseguire dei tamponi anche in senso anti-Covid. Eppure il cielo europeo piange commosso, leggiamo le testuali parole del comunicato: le sue lacrime si confondono con quelle che bagnano le guance abbronzate dal sole, dal mare, dall'angoscia e dall'adrenalina dell'intrepido intrepido squadrone 421. Nei loro passi, nei loro sguardi, nei loro palpiti, i popoli Maya, così dirà la leggenda, hanno attraversato l'Atlantico in 50 giorni, 50 notti, nel loro lungo accidentato viaggio per la vita. Fuori fa freddo, ma dentro, nella geografia del cuore, qualcosa come un sentimento scalda l'anima. Nelle montagne del sud-est messicano il sole sorride e dall'impianto audio escono gioiose le prime note di una cumbia. Queste sono le parole del subcomandante Galeano, il nome con cui si fa chiamare Marcos dal 2014, dal suo cambio di ruolo all'interno dell'organizzazione, in un testo chiamato Siamo Arrivati, e che è stato pubblicato sul sito di Enlance Zapatista, il sito di riferimento delle ZLN. Quindi diciamo che è stata una vera e propria, è stato proprio la pioggia con il vento ad accogliere la delegazione, che è riuscita ad avvistare le coste di Spagna e Portogallo solo nella mattina di domenica, proprio a causa del clima non proprio ottimale che appunto ha accolto i zapatisti. Quindi a Vigo è anche presente una folta delegazione di La Paz, l'Assemblea Nazionale Italiana, che ad ottobre si sta riunendo per lo più in maniera virtuale per garantire una solida organizzazione e protezione della delegazione zapatista quando necessario in Europa, e soprattutto anche quando arriverà proprio qui in Italia. Quando arriveranno? Questa è la domanda ricorrente, Davide, perché in realtà ancora non si sa, però sicuramente insomma presto giungeranno anche qui. In Messico, diciamo, c'è la denuncia pubblica del SUP Galeano sul razzismo statale, che non sta permettendo agli indigeni e alle indigene che raggiungeranno in aereo l'Europa per sommarsi allo squadrone di avere i passaporti per uscire dal paese. Questo è così, ha obbligato il presidente López Obrador per garantire che nessuno sarà lasciato senza documento. Quindi per questo motivo non si sa ancora esattamente quando riusciranno ad arrivare. Nel comunicato però di domenica dello stesso subcomandante si legge: certo, manca lo sbarco, il trasferimento della delegazione aerea, l'organizzazione dell'agenda, gli incontri e la festa della parola. Cioè manca tutto. Il che può far intuire che da domani il ruolo dello squadrone, come ampiamente annunciato, sarà quello anche di organizzare i prossimi mesi di viaggio nei vari paesi d'Europa, tra cui, lo ricordiamo, anche l'Italia. Bene Davide, io direi di fare una brevissima pausa musicale, anche perché c'è bisogno di bere, oggi a Salerno fa molto caldo, e poi ritorniamo per le ultime notizie. About a thing, 'cause every little thing Bene Michele, ritorniamo con alcuni aggiornamenti e alcuni comunicati della delegazione internazionale attualmente in Kurdistan Bashir in Iraq, e questo comunicato ne leggiamo due, uno del 19 giugno e un altro del 21. Quello del 19, dove si accusa lo Stato turco di uccidere altri civili ed attivisti, in quanto il 19 giugno alle ore 19 un drone turco ha attaccato il villaggio di Galala fuori Sulaimania in Bashir, uccidendo due persone e ferendone gravemente una terza. Oggi a Sulaimania si terrà un'altra manifestazione cittadina di protesta contro l'invasione turca del Kurdistan iracheno. Nei giorni scorsi in diverse città kurde ed europee si sono svolte manifestazioni in seguito al femminicidio di Deniz Poyraz, membro del Partito Democratico HDP. L'assassino è avvenuto il 17 giugno nell'ufficio dell'HDP di Izmir, per mano della coalizione del governo turco AKP-MHP. Nella stessa giornata del 17 all'aeroporto di Erbil venivano fermati tre attivisti, finora non si hanno notizie. Proprio di questi tre attivisti è il comunicato di oggi, dove si rivendica Erbil, spariti i rappresentanti fermati in aeroporto e fermati appunto il 13-6, la polizia del KRG, Kurdish Regional Government, ha arrestato tre rappresentanti dell'amministrazione autonoma del nord-est della Siria, recatisi in aeroporto Erbil per raccogliere un gruppo della delegazione internazionale, e da ormai 10 giorni non si hanno più loro notizie. Ieri 21 giugno alla delegazione e a decine di altre persone è stato impedito dalla security del KRG di raggiungere Kandil, zona sotto il controllo del PKK. In seguito a una protesta pacifica e spontanea dei presenti, la security ha sparato sulla folla, ferendo un manifestante. Nei giorni precedenti alla delegazione è stato negato l'accesso anche al campo di Mexmur, uno dei centri più importanti del movimento di liberazione curdo e del confederalismo democratico, ed è stato anche negato l'accesso a Singal, oggi autogovernata dalle milizie autonome yezide. Quindi diciamo che la situazione in Rojava resta sempre, in particolare nel Kurdistan iracheno, a seguito di questa nuova campagna militare turca, resta sempre precaria, soprattutto restano precarie le agibilità politiche proprio in merito al femminicidio che ha riguardato la dirigente dell'HDP in Turchia. Noi non possiamo che essere dalla parte del popolo curdo, soprattutto nella sua idea rivoluzionaria di confederalismo democratico, così come allo stesso tempo ovviamente ci sono state anche delle contraddizioni che si sono aperte anche sul terreno, però l'importanza del movimento di liberazione curdo, credo, così come i principi che esporta il movimento, le ZLN, che avrà modo di incontrare qui in Italia, credo che rappresentano un impulso per tutti i compagni alla riflessione anche dell'agire politico, anche di un nuovo orizzonte politico. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. When the money seems good and your life it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. The end of the other day. the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Davide, ritorni. Davide, ritorniamo qui in diretta durante questa afosa giornata salernitana. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e una buona settimana. Ci diamo appuntamento a martedì prossimo, stessa ora, stesso canale, www.radioasilo.it. Inoltre vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata domani mattina in replica alle 11, sempre su radioasilo.it, e a breve sarà disponibile anche il podcast di questa puntata, che verrà postato sui nostri canali social. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale social Telegram, che aggiorniamo molto spesso, e se volete contattarci c'è la nostra casella di posta elettronica, che è radioasilo@protonmail.com, oppure in particolar modo se volete fare riferimento alla nostra trasmissione Andala, porci delle domande, dei quesiti o altro, degli spunti di riflessione, potete anche contattarci su Facebook tramite la nostra pagina, appunto, Collettivo Andala. Vi auguriamo una buona serata.